50 domande su Gesù. Chi fu Caifa? Caifa, Iosef Caiafas, è stato un sommo sacerdote contemporaneo di Gesù. È citato varie volte nel Nuovo Testamento, in Matteo, in Luca, in Giovanni, negli Atti degli Apostoli. Lo storico giudeo Flavio Giuseppe dice che Caifa ascese al sommo sacerdozio attorno all'anno 18, nominato da Valerio Grato, e che fu deposto da Vitellio attorno all'anno 36. Era sposato con una figlia di Anna. Sempre secondo Flavio Giuseppe, Anna era stato sommo sacerdote fra gli anni 6 e 15. D'accordo con questa datazione e in conformità a quanto riferito anche dai Vangeli, Caifa era il sommo sacerdote quando Gesù fu condannato a morte in croce. La sua lunga permanenza nel sommo sacerdozio è un indizio più che significativo del fatto che intrattenne relazioni molto cordiali con l'amministrazione romana, anche durante il governo di Pilato. Negli scritti di Flavio Giuseppe sono menzionati in varie occasioni gli insulti di Pilato alla identità religiosa e nazionale dei giudei e le conseguenti proteste di personaggi concreti contro di lui. L'assenza del nome di Caifa fra quelli che protestavano contro gli abusi di Pilato è segno delle buone relazioni che intercorrevano fra i due. Questo stesso atteggiamento di vicinanza e collaborazione con l'autorità romana si riscontra anche nel racconto dei Vangeli riguardo al processo a Gesù e alla sua condanna a morte. Tutti i racconti evangelici concordano sul fatto che a seguito dell'interrogatorio di Gesù i principi dei sacerdoti si accordarono di consegnarlo a Pilato. I primi cristiani ben compresero il perché del sacrificio di Gesù. È significativo a questo riguardo quanto riferisce San Giovanni nel suo Vangelo a proposito delle deliberazioni previe alla condanna del Signore. Uno di loro, Caifa, che in quell'anno era sommo sacerdote, disse loro: «Voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera». E San Giovanni commenta: «Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi». Nel 1990 sono stati rinvenuti nella necropoli di Talpiot, in Gerusalemme, 12 ossari, uno dei quali porta la iscrizione Iosef Bar Caiafa, con lo stesso nome, cioè che Flavio Giuseppe attribuisce a Caifa. Si tratta di alcuni ossari del primo secolo e i resti contenuti in quel recipiente ben potrebbero essere quelli del Caifa menzionato nei Vangeli.